Allora, Le Donne del Muro Alto è un progetto attivo ormai da 3 anni all'interno di Re Bibbia Femminile nella sezione Alta Sicurezza. Facciamo teatro lì da ormai appunto 3 anni e quest'anno abbiamo anche un secondo gruppo nella sezione Detenute Comuni, dove l'età media è molto, molto più bassa. E abbiamo iniziato questo percorso con grandi difficoltà, perché veramente sembrava di dover rompere un muro enorme, perché quando siamo arrivate, soprattutto nella sezione Alta Sicurezza, era veramente blindatissima, non c'era la scuola, non c'era nessuna attività, e invece siamo riuscite a far nascere questo progetto che ci sta portando delle grandi gratificazioni, soprattutto con il lavoro con le ragazze. Abbiamo prodotto 3 spettacoli con tantissimi spettatori che sono venuti dall'esterno. Senti, quante sono le donne coinvolte? Allora, nella sezione Alta Sicurezza in questo momento solo 6, mentre invece nelle detenute comuni sono una quindicina. Okay. Probabilmente ora saranno anche di più, perché ho visto dall'educatrice una lista di richieste per fare il teatro. È veramente un'esperienza sconvolgente per loro, perché cambia veramente i rapporti all'interno della sezione, i rapporti con la polizia penitenziaria. È un lavoro molto forte. Senti, ci racconti i prossimi passi di questo progetto? Allora, adesso stiamo lavorando a una replica dello spettacolo che abbiamo fatto l'anno scorso, Amleta, se lei è pazza allora sono pazza anch'io, che andrà in scena probabilmente alla fine di aprile. Siamo state un'officina di teatro sociale, però il progetto è finito l'anno scorso a giugno, e in questo momento stiamo in un periodo un po' particolare, perché non abbiamo fondi ma stiamo cercando di continuare. Come ti dicevo prima, addirittura abbiamo 2 gruppi, perché la direzione ci ha chiesto di ampliare il numero di detenute coinvolte, visto i risultati che siamo riusciti ad ottenere insieme a loro. Però non avendo fondi, poi faremo quindi anche un evento all'inizio di aprile, probabilmente al Cinema Palazzo. Adesso stiamo concordando i dettagli proprio per raccogliere fondi, e diciamo che adesso lo step più urgente è quello di riuscire proprio a portarlo avanti anche economicamente. Infatti c'è una pagina che si chiama Le Donne del Muro Alto su Facebook, dove noi raccontiamo settimanalmente quello che succede nel carcere, le prove, riportiamo delle cose che accadono, le parole delle detenute, le foto, e c'è anche un sito che spiega quindi anche tutta quella che è l'andamento. E poi speriamo di riuscire, ecco, a fare questa replica a fine aprile, e vorremmo andare in scena anche con queste ragazze più giovani entro al massimo l'autunno. Questi sono i progetti. È una cosa che teniamo. No, stavi continuando, scusami, vai. No, stavo dicendo, è molto importante anche non soltanto la fase laboratoriale, ma anche la fase della messa in scena, perché permette innanzitutto di aprire le porte del carcere. Sappiamo tutti che è essenziale e vitale che degli esterni entrino nel carcere e che non sia un luogo blindato. Quindi già il fatto che possiamo ogni volta vengono 450 spettatori è importantissimo. Sì. E poi è importante anche per loro, perché è veramente la vera inclusione sociale, la possibilità di confronto. Senti, ci racconti a grandi linee lo spettacolo? Allora, lo spettacolo è la storia di Amleto al femminile, perché sono tutte donne, quindi abbiamo deciso di utilizzare le risorse che abbiamo, quindi loro, le detenute, e anche partiamo da quello che abbiamo anche dal punto di vista scenografico, tutto quello che c'è nel carcere. È la storia di 2 sorelle, quindi Ofelia e Amleta, e quello di cui noi parliamo sono i pericoli dell'amore. Andiamo ad indagare soprattutto la figura della mamma di Amleta, perché fa questa scelta. Consideriamo che questo spettacolo nasce in una sezione Alta Sicurezza, quindi abbiamo deciso di parlare di qualcosa di molto particolare, come gli affari di famiglia della famiglia appunto di Amleta, le dinamiche che portano la mamma di Amleta ad agire così, la sorella. Ed è un lavoro molto forte, perché è stato un anno di lavoro in cui abbiamo dovuto toccare dei temi molto, veramente molto molto delicati. Il filo conduttore è proprio la verità. Sì. Per amore, la verità per amore è una verità necessaria, non necessaria, qualcosa di positivo, qualcosa di negativo. È una sorta di riscrittura dell'Amleto. Bene. Senti Francesca, allora a questo punto ci lasci nuovamente tutti i riferimenti web e poi ricordiamo anche questo appuntamento, anche se è ancora indicativo, però per aprile, al Cinema Palazzo. Ah sì, quello all'inizio di aprile, invece in carcere a fine aprile Bramleta. Okay. E trovate tutto sulla pagina Facebook Le Donne del Muro Alto. Benissimo. Allora un abbraccio, ci sentiamo a questo punto a ridosso dello spettacolo, così lo lanciamo. Va bene. Grazie mille Federico, ciao. Un abbraccio, ciao. Ciao, ciao, ciao.